in primo piano. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi, eccoci qua con la rassegna stampa di oggi, domenica 15 marzo, e allora cominciamo subito quando sono le 7:20 di mattina. Di nuovo buongiorno, ben svegliati a tutti, e andiamo a vedere che cosa si occupano i giornali di oggi. Vabbè, insomma, un po' in ordine sparso, come succede spesso la domenica. C'è l'intervista di Squinzi su Corriere, tutta l'agitazione politica per quanto riguarda il centrodestra, con la decisione di Tosi di candidarsi, la Toseide che va avanti, i rapporti con Berlusconi e con Salvini, ma nel centro-sinistra si muove qualche cos'altro, soprattutto a sinistra. Ieri a porte chiusissime, blindatissime, Maurizio Landini, leader della FIOM, ha radunato un sacco di associazioni, non i partiti però assolutamente no, a Roma, per lanciare la coalizione sociale, così l'hanno voluta chiamare. E questi sono un po' gli argomenti di primo piano, ma anche insomma ancora alla Grecia con un po' di punti di vista, dopo insomma che si è fatto vedere da queste parti anche il ministro delle finanze Varoufakis, che insomma ha fatto la sua figura a Cernobbio. Va bene, insomma, questi sono un po' gli argomenti principali. Cominciamo con il Corriere della Sera, dove il titolo principale è dedicato al presidente di Confindustria Squinzi, che intervistato proprio dal Corriere dice: l'Italia punti sulle imprese, avanti con le riforme. Poi insomma Squinzi l'aveva detto anche da, appunto, da Cernobbio, che si sono state fatte cose impensabili dal punto di vista delle riforme solo un anno fa, però non bisogna fermarsi, sembra un po' un mantra, ma già vediamo qualche passaggio di questa intervista interessante, nella quale appunto Squinzi chiarisce un po' il punto di vista delle imprese, che è sì accomodante nei confronti di Renzi, ma ha anche dei punti di criticità. Prima di tutto cominciamo con per esempio le riforme fatte, il Jobs Act e la riforma in corso, quella della semplificazione costituzionale, insomma della riduzione dei poteri del Senato, la riforma del titolo quinto. Tutte cose avviate è la domanda, e Squinzi risponde: sì, lei ha usato una parola importante, avviata. Il quadro è sicuramente cambiato, in 12 mesi sono state fatte cose molto e ancora di più ne sono state annunciate. Il problema, dice Squinzi, è proprio questo: devono essere attuate. Il compito è pesante, ma attenzione a sperare che sia qualcun altro a trainarci verso la ripresa, quindi insomma non perdere il passo. Poi a proposito del settore nel quale opera, tra l'altro, insomma, le aziende di Squinzi, l'edilizia è che è un settore che è stato per lunghi anni trainante. Abbiamo perso, dice Squinzi, il 60% delle attività dal 2007 ad oggi. A pesare sono stati l'ICI, l'Imola, Tasi, la Tari, le imposte locali. Il mattone finanzia lo Stato, è il messaggio che è passato in questi anni. La domanda però è: ma lei vuole ancora cementificare? Ma quale cementificare, dice Squinzi. Qua si parla di edilizia abitativa, infrastrutture senza le quali il paese non è in grado di muoversi, si parla di investimenti per riparare al dissesto geologico e sismico, dei quali ci ricordiamo solo quando ci sono tragedie, e non può bastare solo il piano sui porti, per quanto meritevole il piano sui porti presentato qualche tempo fa dal ministro Lupi delle infrastrutture. Le note dolenti sono altre. Dice Squinzi: dobbiamo evitare di rimanere al 49esimo posto nella classifica mondiale della competitività, e ci sono delle riforme in corso che promettono invece di peggiorare le cose, secondo Squinzi addirittura. Sentiamo quali sono queste cose. La prima è la norma sui reati ambientali, il DDL sugli ecoreati, approvato recentemente al Senato, deve poi passare anche alla Camera. Se passasse, dice Squinzi, l'impostazione attuale, che non distingue tra chi ha un incidente e chi si attiva e si attiva subito per riparare a questo incidente, e chi invece inquina per scelta criminale è come affermare che gli imprenditori sono malfattori per definizione. Chi vorrebbe investire in Italia sapendo che rischia una sanzione penale in caso di incidente, al quale ha però subito posto rimedio? Questa è la domanda che si fa a Squinzi. L'altro punto in discussione è il falso in bilancio. Anche qui, per quale motivo non si distingue tra errore e dolo? Vogliamo dare ai magistrati la licenza di uccidere le imprese? La domanda di Squinzi, che poi chiude l'intervista insomma mandando un messaggio trasversale a ma non è la prima volta, insomma, a chi minaccia di voler uscire dall'euro, e insomma le imprese hanno fatto i conti, ce l'ha con Salvini e Grillo, risponde in generale a quelli che vogliono uscire dall'euro. Abbiamo stimato che se accadesse il prodotto interno lordo, la ricchezza che produciamo, si ridurrebbe di colpo del 30%. Quindi serve più Europa e non meno Europa, secondo Squinzi, cioè meno 30% di PIL se l'Italia uscisse dall'euro, questo secondo il presidente di Confindustria Squinzi. Allora, invece, sempre sui temi, diciamo, di politica economica, c'è la Grecia con un editoriale di Angelo Panebianco, restiamo ancora per un momento sul Corriere, che si pone questa domanda: ma serve ancora votare? E insomma, il sottotitolo è Grecia, Europa e noi. Comincia così: il ministro delle finanze Varoufakis ha dichiarato che per arrivare a un accordo con l'Europa il suo governo è pronto a rinviare alcune promesse elettorali, cioè la Grecia è pronta a fare meno spese sul welfare, diciamo a investire di meno anche dal punto di vista dello Stato per risollevare un po' l'occupazione e la crescita, pur di arrivare a un accordo con la BCE, la Commissione Europea, il Fondo Monetario. Però questa questione aperta sulla Grecia e con questa, diciamo, ammissione di Varoufakis, secondo Panebianco, pone una questione. Perché, insomma, dice: qual è il problema risolto dell'Europa oggi? Il disallineamento in atto da tempo tra il patto europeo e le regole e i principi su cui si reggono tutte le democrazie nazionali. Il primo, il patto europeo, impone che gli impegni presi reciprocamente tra i governi dell'Unione debbano essere rispettati. I secondi, le regole e i principi democratici, impongono che i governi rispondano prima di tutto ai loro elettori e soltanto dopo, in seconda istanza, anche alle istituzioni sovranazionali come l'Unione Europea. Insomma, cosa succede in tutti e due i casi, dice Panebianco? Insomma, non sono scenari positivi in ogni caso per l'Europa e forse anche per le democrazie europee, perché dice: attenzione al compromesso che si raggiungerà sulla Grecia, perché se potrà essere letto soprattutto come una vittoria dei greci, allora scatenerà i rancori dell'opinione pubblica tedesca e dei paesi più vicini all'orientamento dell'austerità, sarà letto come il successo degli imbroglioni, degli scialacquatori greci, dei parassiti che vivono alle spalle altrui. Niente di buono si preparerebbe per l'Europa. Se invece il compromesso, al contrario, fosse letto come una sconfitta del governo greco, allora il messaggio generale sarà che la democrazia in Europa non conta nulla, perché naturalmente sarebbero state vanificate tutte le promesse elettorali fatte dal governo Tsipras durante la campagna elettorale ai greci. Insomma, anche in questo secondo caso, però, un futuro piuttosto cupo si preparerebbe per l'Unione, secondo Panebianco. Dicevamo, insomma, scenari centrodestra, centrosinistra in movimento, in agitazione. Abbiamo la pausa, tra poco dobbiamo fare, chiedo in regia Paolo Corleoni. Sì, allora la facciamo subito, poi dopo affrontiamo sui giornali di oggi i due scenari in movimento: la candidatura di Tosi in Veneto alle regionali, che però agita tutto il centrodestra, perché dice Tosi questo è un laboratorio per costruire un centrodestra moderato alternativo alla Lega. E invece sull'altro lato la coalizione sociale lanciata ieri da Landini. In primo piano. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Stiamo dando un'occhiata ai giornali di oggi, la rassegna stampa della domenica mattina. Però prima facciamo un piccolissimo aggiornamento, perché Enrico Pagliarini, buongiorno. Buongiorno, piccolo, molto veloce. Appena finita la prima gara di Formula 1, c'è una buona notizia, perché la Ferrari è arrivata terza. Prime sono le due Mercedes, quindi Su quello non è cambiato nulla rispetto alla scorsa, però Vettel ha fatto un buon... La brutta notizia per la Ferrari, che purtroppo Raikkonen si è ritirato, però nel giro delle 8 faremo un breve riepilogo di quello che è successo. Benissimo, grazie mille Enrico Pagliarini con questo aggiornamento flash sul primo Gran Premio della stagione di Formula 1, terzo posto con Vettel per la Ferrari. Insomma, cari amici ferraristi, siete soddisfatti o no? Come sempre, se volete, potete scriverci all'SMS 349-238-6666. Questo vale anche per i temi della rassegna stampa. Prima di andare, come anticipato nella prima parte, sul diciamo centrodestra, Tosi e Veneto, centrosinistra, Landini, coalizione sociale a confronto, facciamo una lettura di qualche titolo di giornali, così giusto per vedere un po' le notizie. A Sole 24 Ore apre con cose economiche, naturalmente, come giusto che sia. Visco, governatore della Banca Italia, crescita oltre lo 0,5%, la sua previsione per quest'anno. Padoan spinge sulle riforme, per il ministro opportunità di riprese, ma non rilassiamoci. Il Libero invece apre sul 7.30, insomma, sulla dichiarazione dei redditi, perché il Libero vede lo scippo da 10 miliardi, Renzi fa la cresta sui nostri 7.30, qual è la notizia? È questa, secondo Libero, è che la dichiarazione precompilata non tiene conto di molte detrazioni, tra cui spese mediche, e si possono aggiungere, ma si perde lo scudo. Inoltre, sotto i 300 euro diventa antieconomico ricorrere a CAF e commercialisti, e lo Stato incassa. Il commento invece di Libero è dedicato alle vicende politiche del centrodestra, ai giochi pericolosi del centrodestra, così perderà il Veneto, attenzione agli aspiranti suicidi, dice Maurizio Belpietro, riferendosi insomma alle divisioni nella Lega tra Tosi e Zaia, che poi insomma avranno dei riflessi probabilmente anche nello schieramento, perché Alfano appoggerà Tosi, Berlusconi è in forze, anche se l'alleanza quella più probabile è quella con Salvini, quindi con Zaia. Il Manifesto invece è un altro titolo con la foto di Maurizio Landini, il titolo è Il Saldatore, perché insomma siamo qui per unire tutti quelli che il governo ha diviso, però non siamo un partito, ha detto Landini, che ha lanciato la sua coalizione sociale il 21 marzo a Bologna, prima tappa in piazza con Libera, poi il 28 marzo a Roma, e quindi da qui insomma il titolo Il Saldatore. Stesso argomento anche per il Fatto Quotidiano, che titola È Landini l'anti Renzi, il leader della FIOM a testa bassa contro il Partito Democratico, distrugge i diritti, la politica non è una cosa privata, e lancia la sua Leopolda rossa. Cos'altro? Vediamo. Andiamo su, a questo punto, sull'argomento annunciato, e per esempio su Repubblica, che titola Scontro Landini Renzi, il PD cancella i diritti. Andiamo a vedere di che si tratta. La mia idea, dice Landini, è costruire qualcosa che difende i diritti di cittadinanza a partire da quello del lavoro. Insomma, una riunione ieri blindatissima a Roma da parte di una serie di associazioni convocate proprio da Maurizio Landini, il leader della FIOM. Non c'erano i partiti, anche se, leggiamo, a far rumore è stata soprattutto l'assenza di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, che è insomma l'area politica assolutamente di riferimento per questo movimento, almeno per quanto riguarda la FIOM di Landini. Però insomma non sono mancati alla vigilia i contatti con la galassia vendoliana, che però alla fine è stata lasciata fuori dalla porta. Si sono presentati anche tre incauti senatori ex grillini a questo raduno, hanno sfidato il veto contro i partiti, però insomma dopo pochi minuti sono stati messi garbatamente alla porta anche loro, probabilmente perché all'inizio non aveva riconosciuti nessuno, non sapevano chi fossero, altrimenti non li avrebbero neanche lasciati entrare. C'è una intervista per esempio a Cecilia Strada su Repubblica, che dice bisogna dare risposte vere al paese, Emergency può aiutare sul tema della sanità. Che succede con questa coalizione sociale? Risponde Cecilia Strada, non nasce un nuovo partito, anche se è quello che tutti immaginano, no? Però insomma, tutti i diretti interessati negano. Non nasce un nuovo partito nonostante le illazioni, non c'è nessun mistero su quello che vogliamo fare. anche se riunione a porte chiuse, questo dico io, insomma, non, la riunione a porte chiuse non aiuta, diciamo, a levare l'ombra del mistero su questa coalizione sociale. La stampa è stata tenuta rigorosamente fuori durante tutte le sei ore di questa riunione fiume di questo cartello di associazioni. Ma riprendiamo le parole di Cecilia Strada, dicevamo, non c'è nessun mistero su quello che vogliamo fare, anche se stiamo ancora pensando a che forma avrà quello che oggi è un movimento, un momento di dialogo tra tante realtà che già in questi anni si sono messe assieme per capire cosa si può fare per dare risposte ai problemi di questo paese. Sembra un po' il solito bla bla bla, le associazioni che si mettono insieme per discutere dei problemi del paese. Che cosa potete fare concretamente in questo, con questo movimento? Per ora, risponde Cecilia Strada, possiamo riprendere un ragionamento collettivo, e siamo alle solite, insomma, analisi della situazione, ma anche mettere a disposizione ogni forza, ogni associazione, dice Cecilia Strada, il proprio terreno specifico, insomma le proprie esperienze concrete. Noi di Emergency possiamo portare un contributo sulla questione dell'assistenza sanitaria. Ripeto, riunione a porte chiusissime, puoi anche avercela con la stampa che vuol mettere un cappello su questa operazione definendo un partito quello che per ora partito non è, però non è un'immagine, diciamo, di grande trasparenza quella che ne viene fuori, perché non si sa cosa è stato detto, non si sa chi era presente, e insomma, vabbè, questi sono i commenti, diciamo, ognuno fa i suoi. Andiamo invece su quello che si agita dall'altro campo, nel centrodestra, con la Toseide, il sindaco di Verona Flavio Tosi, che decide, rompe gli indugi, decide formalmente, ufficialmente di candidarsi per le elezioni regionali in Veneto, cosa che era abbondantemente nell'aria. Scrive Repubblica: Tosi spacca la Lega in Veneto, mi candido per vincere. E Salvini che commenta: goditi pure Alfano e il sostegno di Alfano. Ieri Tosi in questa riunione ha detto così, in questa riunione a Verona affollatissima, 600 persone sedute, erano questi posti presenti all'auditorium del capoluogo veneto, ma ce n'erano molti altri in una sala attigua che seguivano la questa conferenza stampa di Tosi attraverso il video. Altri sono rimasti fuori, venuti da tutto il Veneto. Ha detto Tosi: da uomini liberi siamo qui a candidarci alla presidenza della regione Veneto, tutto in noi. Tutto in noi, perché quello che fa capire Tosi è che questa sfida non era solo la sua sfida personale a Zaia o la sua sfida personale a Salvini, ma è l'inizio di un cammino, anche qui, diciamo, di un nuovo centrodestra, cose che abbiamo sentito dire anche questa volta, in questo caso mille volte, ma insomma, prendiamone atto, perché dice: le regionali in Veneto diventano un laboratorio, il tentativo di aggregare un nuovo centrodestra che costituisca un'alternativa credibile a Renzi, ma anche il rifiuto al populismo ormai entrato nel DNA della Lega. L'alternativa, ancora, ancora frasi di Tosi, parte da qui, ma è per tutto il paese. Quello che stiamo facendo diventerà un modello da seguire per chi non vuole morire renziano, ma nemmeno salviniano. La replica del diretto interessato, Matteo Salvini, segretario della Lega, segretario federale della Lega Nord, è stata questa. Ieri era nel Padovano assieme a Luca Zaia, il candidato ufficiale della Lega in Veneto, e sprezzantemente Salvini ha detto: Tosi si goda pure il sostegno di Alfano e Fini. Alfano, che ricordiamo è stato alleato di Salvini della Lega quando stava dentro Forza Italia per molto tempo, adesso però insomma corre pochissimo buon sangue, anzi insomma soprattutto veleni tra queste anime del centrodestra. E invece il nuovo centrodestra di Alfano è abbastanza felice di questa spaccatura che si è creata in Veneto, che darà anche visibilità al partito di Alfano, che sosterrà Tosi. Infatti Maurizio Lupi ieri ha commentato, anzi Sacconi ha commentato: la candidatura di Tosi accelera la possibilità di una coalizione vincente tra liberal popolari ed autonomisti. In primo piano. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, con la rassegna stampa di oggi su Radio 24. Sono le 7:48 minuti, ancora qualche minutino insieme prima del giornale radio delle 8, poi ci risentiremo dopo con Si può fare a partire dalle 8:30, 8:35. Le diverse anime che si agitano nel centro-destra, anche la stampa fa una pagina: Alfano, Berlusconi, Salvini, Tosi. Alfano, la coabitazione con Renzi, la scelta della moderazione. Berlusconi, le aperture sui diritti civili e le sbandate sulle riforme. Salvini, lo stile nuovista vincente contro Bruxelles e gli immigrati. Infine Tosi, l'ultima figura che si aggiunge, favorevole alle unioni gay, più sfumato sull'euro. Questo è l'ognun per sé, tutti per il centrodestra. La stampa, che ha anche un'intervista a Di Pietro, che conferma di volersi candidare a sindaco a Milano. Chiedo a Grillo di sostenermi. L'ex leader dell'Italia dei Valori, che nega tra l'altro o non conferma di essere l'avvocato di Casaleggio, uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle. I clienti sono riservati, dice Di Pietro. Vediamo un po' qualche risposta. Mi sto confrontando con il tessuto civile e sociale di Milano per vedere se ci sono le realtà culturali e le persone per bene per portare avanti il progetto. Si sussurra che lei avrebbe già l'accordo con Casaleggio. Bisogna essere in due per sposarsi. Movimento 5 Stelle per definizione non appoggia persone che abbiano ricoperto un mandato politico. Quindi insomma Di Pietro fa capire che questo accordo non c'è, non ci può essere un sostegno diretto al momento del Movimento 5 Stelle alla candidatura di Di Pietro come sindaco di Milano. Di Pietro che poi manda suggerimenti a Beppe Grillo: devi candidarti, non basta limitarsi alle proteste, bisogna passare alla proposta, anche se credo che ultimamente Beppe Grillo lo abbia capito. Grillo che farebbe bene a farsi eleggere in Parlamento, è bene che il comandante stia al timone della nave. Ma è vero che Casaleggio è il suo assistito, i clienti sono riservati per definizione, ma c'è chi giura di avere ricevuto lettere come suo legale. Io difendo i miei clienti, dice ancora Di Pietro. Vabbè, insomma, poi sulla vicenda Milano: Milano è l'espressione più chiara del fatto che non è cambiato nulla dalla prima repubblica. La City milanese tesse gli stessi intrighi di potere che c'erano durante Tangentopoli. Ecco perché insomma Di Pietro si riproporrebbe 20 anni dopo il suo momento, oltre 20 anni dopo il suo momento di grande splendore, quando fu PM all'epoca di Tangentopoli. La stampa, che ha anche un bel reportage dal Libano. Cambiamo completamente argomento e parliamo dell'avanzata dello Stato Islamico anche in Libano, l'ISIS nei villaggi del Libano, dove già si è cominciato a combattere. Questa cosa non era ancora emersa, credo, molto chiaramente. C'è questo reportage di Maurizio Molinari, appunto dal Libano: fra i libanesi della Valle della Bekaa, l'ISIS è arrivato, qui combatteremo. Quindi un nuovo fronte di avanzata all'esercito islamico, questa volta appunto in Libano. Tra i pochi, scrive Molinari, che conoscono a menadito gli imprecisi confini dell'enclave del califfato in Libano, c'è Talal Islandkar, capo dell'unità della Croce Rossa Internazionale, che opera a Ras Baalbek, soccorrendo i feriti in battaglia tra l'ISIS e i libanesi. Abbiamo iniziato a operare qui nel 2013, la fase più cruenta è scattata dall'autunno scorso. Abbiamo ricevuto fino ad ora 3.000 combattenti feriti dalle opposte parti, sia l'ISIS che i libanesi. Ma chi è che combatte contro l'ISIS? Sentite, nel nord della Valle della Bekaa è Hezbollah, insomma il movimento già considerato integralista sciita, che però in questo momento si sta scontrando con l'ISIS. Pensate a che livello siamo arrivati rispetto a qualche anno fa. Insomma, la Hezbollah coordina la difesa sul fronte delle montagne in Libano contro l'avanzata delle bandiere nere del califfato, mentre a valle l'unica strada maestra che porta a Beirut è sorvegliata dai soldati e la polizia libanesi. Quindi a sud l'esercito libanese, a nord Hezbollah. E sentite ancora questo particolare incredibile: nel villaggio cristiano di Kasara gli abitanti, villaggio cristiano, si sentono assediati dall'arrivo dell'ISIS e dell'esercito islamico, dai tagliagole dell'ISIS, e chiedono protezione a Hezbollah. Hezbollah, che è un movimento integralista islamico che solo fino a poco tempo fa veniva considerato tra, nella stregua dei nemici dei movimenti terroristici peggiori al mondo, adesso Hezbollah difende i cristiani in Libano dall'avanzata dell'ISIS. Sono i cristiani stessi ad ammetterlo, perché dicono sono gli Hezbollah a proteggerci, perché ISIS vuole ucciderci tutti, dice, a parlare in questo caso è un medico, Munir Dica, intervistato da Molinari in questo bel reportage sull'avanzata dell'ISIS in Libano, reportage oggi sulla Stampa. Un minuto per chiudere con il giubileo. Il Messaggero dedica il titolo di prima pagina, giubileo piani antiterrorismo, perché il Papa va di corsa ma il Vaticano assicura, scrive il Messaggero, che Bergoglio sta bene, quindi non ci sono motivi di salute dietro all'annuncio, insomma all'annuncio detto a questa sua frase di velata preoccupazione sulla durata del suo pontificato. Insomma, ieri l'altro ieri hanno sconvolto un po' tutti queste frasi di Bergoglio. Ma dicevamo sul giubileo, il sindaco di Roma Marino che dice sarà un evento che è una grande occasione di crescita e di sviluppo da non perdere per Roma, il ministro dell'interno Alfano che dice siamo rimasti sorpresi da questo annuncio, Roma però sarà pronta, trasferiremo a Roma i 5.000 agenti che stavano che impiegheremo per l'Expo, cioè straordinari per quest'anno e anche per l'anno prossimo per le forze dell'ordine che dovranno presidiare prima Milano per l'Expo. Quando finirà l'Expo, cos'è, ottobre, un mese dopo parte il giubileo a Roma, quindi via tutti nella capitale a garantire la sicurezza, perché sarà un evento, anche se probabilmente meno clamoroso di quello del 2000 di Wojtyla, dove ci furono raduni di milioni di pellegrini, però insomma un giubileo è sempre una cosa che attira e trascina. E insomma di questo si occupa oggi il Messaggero. Vediamo ancora il Corriere, sempre su questo argomento. Un miliardo di spesa per il giubileo, Marino, non servono grandi opere, anche se è previsto insomma un balzo in avanti del PIL, anche in questo caso si fanno i conti di quanto potrà trascinare l'economia e la ripresa un evento come questo. Ci fermiamo perché adesso è arrivato il momento del giornale radio, termina qua la rassegna stampa di Radio 24 per questa mattina. Noi però ci risentiamo di nuovo dopo le 8:30, 8:35 con Si può fare, quindi a dopo.